ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. Percorsi con qualche difficoltà le 2 miglia che separavano Cime tempestose da casa mia e, col pretesto di informarmi sulle necessità domestiche, invitai la signora Dean a farmi compagnia mentre mangiavo, sperando vivamente che si rivelasse un'autentica chiacchierona. «Lei vive qui da un bel po' di tempo», cominciai. 16 anni», ha detto. 18, signore. Sono arrivata quando la padrona si è sposata, per badare a lei. Poi, quando morì, il padrone mi ha tenuta come governante. Certo che i tempi sono molto cambiati da allora. Sì, osservai, avrà visto molti cambiamenti, credo. Infatti, e anche molte disgrazie. Porterò il discorso sulla famiglia del mio padrone di casa, pensai tra me. E con tale intenzione chiesi alla signora Dean perché Heathcliff affittasse la Grange preferendo vivere in una posizione in una casa molto meno confortevoli. «Forse non è abbastanza ricco da mantenere in buono stato la sua proprietà?» dissi. «Ricco, signore», ribatté lei. «Nessuno sa quanti soldi abbia. E ogni anno aumentano. Sì, sì, è abbastanza ricco da poter vivere in una casa più bella di questa, ma è così tirchio, così taccagno. È strano che debba essere così avido quando è solo al mondo. Aveva un figlio, mi pare. Oh sì, ne aveva uno, ma è morto. E quella giovane donna, la signora Heathcliff, è la sua vedova? Sì, certo. Da dove veniva? Ma signore, è la figlia del mio defunto padrone, signore. Il suo nome da ragazza era Catherine Linton. L'ho levata io, povera piccola. Come? Catherine Linton? Esclamai sbalordito, ma bastò un attimo di riflessione per convincermi che non poteva trattarsi del fantasma Catherine. Allora proseguì, il nome del mio predecessore era Linton, certo. E chi è quel Herton Hershaw che vive con il signor Heathcliff? Sono parenti? No, è il nipote della defunta signora Linton, cugino della giovane allora. Sì, e anche il marito era suo cugino, uno da parte di madre e l'altro di padre. Heathcliff aveva sposato la sorella del signor Linton. Ho visto che sopra la porta principale della casa, a Cime tempestose, è inciso Henshaw. È una vecchia famiglia? Molto vecchia, signore. E Herton è l'ultimo di loro, come la nostra signorina Cathy è l'ultima di noi, voglio dire dei Linton. Scusi se glielo chiedo, ma mi piacerebbe sapere come sta. La signora Heathcliff sembrava in buona salute ed era molto bella, ma non altrettanto felice, credo. Santo cielo, non mi stupisce. E che ne pensa del padrone? Un tipo piuttosto ruvido, signora Dean. Non è quello il suo carattere? Ruvido come il filo di una sega e duro come una pietra. Meno si ha a che fare con lui, meglio è. Deve aver avuto molti alti e bassi nella vita per avere un caratteraccio del genere. Che cosa sa della sua storia? È la storia di un cuculo, signore, che si è insinuato nel nido d'altri. So tutto di lui, tranne dove è nato, chi erano i suoi genitori e come ha fatto ad arricchirsi. Herton è stato buttato fuori come un passerotto in plume. Quel povero ragazzo è il solo in tutto il paese a non rendersi conto di essere stato fatto su così. Beh, signora Dean, sarebbe un gesto caritatevole raccontarmi qualcosa dei miei vicini. Sento che non riuscirei a dormire se andassi a letto, perciò abbia la bontà di sedersi a chiacchierare per un'oretta. Ma certo, signore, vado soltanto a prendermi il cucito e poi resterò finché vuole. Thank you. Prima di venire qui, cominciò senza aspettare altro invito, ero quasi sempre a Cime Tempestose, perché mia madre aveva allevato il signor Hindley, il padre di Herton, e io ero abituata a giocare con i bambini. Facevo anche delle commissioni, aiutavo nei campi e mi tenevo a disposizione alla fattoria per qualunque lavoretto mi venisse affidato. Una bella mattina d'estate, si era al principio del raccolto, ricordo, il signor Earnshaw, il vecchio padrone, scese vestito da viaggio e dopo aver detto a Joseph che cosa si doveva fare durante il giorno, si rivolse a Hindley, a Cathy e a me, io infatti stavo facendo colazione con loro, e disse, parlando a suo figlio, «Allora, mio caro Ometto, oggi vado a Liverpool. Che cosa vuoi che ti porti? Puoi scegliere quello che vuoi, basta che sia qualcosa di piccolo, perché andrò a piedi. Sono 60 miglia all'andata e 60 al ritorno, un bel pezzo di strada». Hindley disse che voleva un violino, e poi il padre chiese alla signorina Cathy, che non aveva ancora 6 anni, ma sapeva già cavalcare tutti i cavalli della scuderia. Lei scelse un frustino. Non si dimenticò di me, perché era di buon cuore, anche se a volte piuttosto severo. Promise di portarmi una tasca piena di pere e mele. Poi baciò i bambini e partì. I 3 giorni della sua assenza sembrarono un'eternità a tutti noi e la piccola Cathy continuava a chiedere quando sarebbe tornato. La signora Earnshaw lo aspettava per cena la sera del 3° giorno. Rimandò il pasto da un'ora all'altra, ma lui non dava segno di arrivare e alla fine i bambini si stancarono di correre giù al cancello a guardare. Poi venne buio e la madre voleva mandarli a letto, ma loro implorarono tutti tristi di poter rimanere alzati. Finché, verso le 11, il catenaccio fu sollevato silenziosamente e il padrone entrò. Si buttò su una sedia ridendo e lamentandosi e ordinò a tutti quanti di stare lontano perché era stanco morto. Non avrebbe fatto un'altra simile camminata neppure in cambio di un regno. «E dopo tutto ciò dovrò anche sentirmene dire d'ogni colore», disse ridendo, aprendo il mantello che teneva avvolto fra le braccia. «Guarda qui, moglie, non ho mai visto una cosa del genere, ma tu devi prenderlo come un dono del cielo, anche se è scuro, come se venisse dal diavolo». Ci stringemmo intorno a lui e sopra la testa della signorina Cathy riuscì a vedere un bambino, sporco, cencioso, scuro di capelli. Era abbastanza grande per parlare e camminare, anzi, a giudicare dalla faccia, sembrava più grande di Catherine, ma quando fu messo a terra non fece che guardarsi attorno e ripetere strane parole che nessuno capiva. Io ero impaurita, la signora Earnshaw era pronta a gettarlo fuori di casa. Si arrabbiò davvero e chiese al marito come gli fosse saltato in mente di portare quel marmocchio di zingaro in casa, mentre avevano già i loro figli da nutrire e a cui badare. Che intenzioni aveva? Era forse impazzito? Il padrone cercò di dare spiegazioni, ma era davvero stanco morto e tutto ciò che riuscì a capire, tra i rimproveri della moglie, fu che l'aveva visto, affamato, senza un tetto e praticamente inebetito per le vie di Liverpool. L'aveva raccolto, chiedendo in giro di chi fosse. Non un'anima che sapesse di chi era, disse. E dal momento che aveva tempo e denaro limitati, pensò che fosse meglio portarlo subito a casa con sé, piuttosto che affrontare spese inutili in città, perché aveva comunque deciso di non lasciarlo nell'abbandono in cui l'aveva trovato. Bene, la conclusione fu che la padrona brontolò finché si fu calmata. Il signor Earnshaw mi disse di lavare il bambino, di dargli degli abiti puliti e di metterlo a letto con i suoi figli. Subito la signorina Cathy e lui diventarono inseparabili, ma Hindley lo odiava e a dire la verità anch'io. Sembrava un bambino imbronciato e paziente, forse indurito dai maltrattamenti, Sopportava i colpi di Hindley senza battere ciglio né piangere, e quando lo pizzicavo si limitava a trasalire e a spalancare gli occhi, come se si fosse fatto male da solo, per caso, e nessuno ne avesse colpa. Questa sua sopportazione faceva diventare furioso il vecchio Earnshaw quando scopriva suo figlio nell'atto di perseguitare quel povero bambino senza padre, come lo chiamava lui. Si affezionò a Heathcliff in modo strano, credendo a tutto quello che diceva, se per questo diceva ben poco, e quasi sempre la verità, e coccolandolo molto più di Cathy, che era troppo disubbidiente e capricciosa per essere la sua beniamina. Così, fin dal principio, la sua presenza alimentò cattivi sentimenti in casa. Alla morte della signora Earnshaw, che avvenne meno di 2 anni dopo, il giovane padrone ormai considerava suo padre un oppressore più che un amico, e Heathcliff un usurpatore dell'affetto del genitore e dei privilegi, e si faceva sangue cattivo rimuginando sui torti subiti. Per un po' simpatizzai con lui, ma quando i ragazzi si presero il morbillo e io dovetti curarli e assumere all'improvviso il ruolo di una donna adulta, cambiai idea. Heathcliff era malato gravemente e nei momenti peggiori mi voleva costantemente accanto a sé. Credo che sentisse che mi stavo prodigando per lui, senza avere la capacità di capire che ero costretta a farlo. Ciò nonostante, devo ammetterlo, era il bambino più tranquillo che mai infermiera abbia curato. La differenza fra lui e gli altri mi costrinse ad essere meno parziale. Cathy e suo fratello erano insopportabili. Lui se ne stava buono, senza lagnarsi, come un agnellino, anche se a renderlo così quieto era la sua durezza, non la sua bontà d'animo. Se la cavò. E il dottore disse che era in gran parte era merito mio e mi lodò per averlo curato. Lusingata dai complimenti, diventai più tenera verso colui che me li aveva fatti guadagnare e così Hindley perse la sua ultima alleata. Eppure non mi riusciva di affezionarmi a Heathcliff. Spesso mi chiedevo che cosa mai ci trovasse il mio padrone in quel ragazzo imbronciato, che, per quanto mi ricordo io, non ricambiò mai la sua benevolenza con un segno di gratitudine. Non era insolente col suo benefattore, era semplicemente impassibile, nonostante sapesse perfettamente quale presa avesse sui suoi sentimenti e che gli bastava una parola perché tutta la famiglia venisse costretta a piegarsi ai suoi desideri. Per esempio, ricordo che una volta il signor Earnshaw comprò un paio di puledri alla fiera del paese e ne diede uno ciascuno ai ragazzi. Heathcliff prese il più bello, che però presto si azzoppò. Quando lui se ne accorse, disse a Hindley: «Devi cambiare il tuo cavallo col mio, perché il mio non mi piace. Se non lo fai, dirò a tuo padre che questa settimana mi hai picchiato 3 volte e gli farò vedere il braccio, con i lividi fino alla spalla». Hindley gli mostrò la lingua e gli diede un pugno. «Sarà meglio che tu lo faccia subito», insistette lui, rifugiandosi sotto il portico. Erano nella stalla. «O sarai costretto a farlo dopo. E se parlo di queste botte, te le riprenderai con gli interessi». «Vattene, cane!» urlò Hindley, minacciandolo con un peso di ferro usato per pesare le patate e il fieno. «Tiramelo!» ribatté l'altro, senza muoversi di un passo. «E gli racconterò che hai fatto il gradasso, dicendo che mi manderei via di casa non appena lui sarà morto. Vedremo se non sarà lui a mandarti via subito». Si lamentava così di rado di baruffe come questa che io credevo non fosse affatto vendicativo. Ma mi sbagliavo completamente, come vedrete. Ma venne finalmente l'ora che pose termine alle sofferenze del signor Earnshaw sulla terra. Morì tranquillamente nella sua poltrona, una sera d'ottobre, seduto accanto al fuoco. La signorina Cathy era stata malata, il che la rendeva quieta. Era appoggiata alle ginocchia di suo padre, mentre Heathcliff era sdraiato sul pavimento con la testa sul grembo di lei. Ricordo che il padrone, prima di assopirsi, accarezzandogli i bei capelli, era raro che avesse il piacere di vedere sua figlia così docile, le disse: «Perché non puoi essere sempre una bambina buona, Cathy?» E lei, alzò il viso verso di lui ridendo e gli rispose: «Perché non puoi essere sempre un uomo buono, papà?» Ma non appena lo vide di nuovo arrabbiato, gli baciò la mano e disse che gli avrebbe cantato qualcosa per farlo addormentare. Cominciò a cantare con voce molto bassa, finché le dita di lui si staccarono dalle sue e la testa gli ricadde sul petto. Allora le dissi di stare zitta e di non muoversi per non svegliarlo. Restammo tutti zitti come topi per una buona mezz'ora e ci saremmo rimasti anche di più se non fosse stato per Joseph, che finito il suo capitolo si alzò e disse che doveva svegliare il padrone per le preghiere e portarlo a letto. Gli si avvicinò, lo chiamò per nome, gli toccò la spalla, ma lui non si muoveva. Allora prese una candela e lo guardò bene. Quando riabbassò la luce, capii che c'era qualcosa che non andava. Prese per un braccio i bambini e sussurrò loro di correre sopra e non fare chiasso. Potevano pregare da soli quella sera perché lui aveva altro da fare. «Prima darò la buonanotte a papà», disse Catherine, gettandogli le braccia al collo prima che potessimo impedirglielo. La poverina si accorse subito di quello che era accaduto e gridò: «Oh, è morto, Heathcliff, è morto!» E tutti e due scoppiarono in singhiozzi da spezzare il cuore. Il signor Hindley tornò a casa per il funerale e, cosa che sbalordì noi tutti e provocò fiumi di chiacchiere nel vicinato, portò con sé una moglie. Da che famiglia venisse e dove fosse nata, non ce lo disse mai. Il giovane Earnshaw era cambiato moltissimo nei 3 anni di assenza. Si era fatto più magro, aveva perso il suo colorito e parlava e si vestiva in modo diverso. E il giorno stesso del suo ritorno disse a Joseph e a me che da allora in poi dovevamo sistemarci nel retrocucina e lasciare a lui la sala. E privò Heathcliff delle lezioni del curato e arrivò al punto di mandarlo a lavorare nei campi, costringendolo a faticare quanto gli altri braccianti della fattoria. Nei primi tempi Heathcliff non reagì al proprio abbassamento di rango, perché Cathy gli insegnava quello che lei imparava e lavorava e giocava con lui nei campi. Tutti e due minacciavano di crescere come dei veri e propri selvaggi. Una domenica successe che vennero banditi dalla sala per avere fatto rumore o qualche altra piccola marachella, e quando andai a chiamarli per la cena non riuscii a trovarli da nessuna parte. Cercammo per tutta la casa, di sopra e a pian terreno, in cortile, nelle stalle, nessuna traccia di loro. Infine Hindley, su tutte le furie, ci disse di sprangare alle porte e intimò che quella notte nessuno li lasciasse entrare. Ce ne andammo tutti a letto. Io, troppo in ansia per coricarmi, aprii la finestra e mi affacciai per ascoltare, benché piovesse. Ero decisa a farli entrare nonostante il divieto, se mai fossero tornati. Dopo un po' sentì dei passi su per la strada e attraverso il cancello balenò la luce di una lanterna. Mi gettai uno scialle sulla testa e mi precipitai per impedire che svegliassero il signor Hindley bussando. C'era soltanto Heathcliff. Trasalì nel vederlo solo. «Dov'è la signorina Catherine?» gridai affannata. «Nessuna disgrazia, spero!» «Alla Grange», mi rispose. «E anch'io sarei rimasto là, ma non sono stati abbastanza educati da chiedermelo». «Beh, le prenderai», dissi. «Non sarai contento finché non ti butteranno fuori. Che siete andati a fare alla Grange? Questa faccenda avrà più conseguenze di quel che pensi. Sei inguaribile, Heathcliff. Il signor Hindley dovrà adottare misure drastiche e vedrai se non lo farà». Le mie parole si rivelarono più vere di quanto non volessi. Quella sfortunata avventura fece infuriare Hindley. Heathcliff non ricevette punizioni fisiche, ma gli venne detto che bastava che dicesse una sola parola a Catherine e sarebbe stato mandato via, e la signora Earnshaw si assunse il compito di tenere debitamente a freno sua cognata, non appena fosse tornata a casa, con l'astuzia e non con la forza. Con la forza non le sarebbe stato possibile. Anna Maria Guarnieri, sua la voce che legge Cime tempestose di Emily Brontë. La Guarnieri è figura storica cruciale nella storia in particolare del teatro italiano, ma si è prestata anche agli sceneggiati televisivi e al cinema. La traduzione di Cime tempestose è di Margherita Giacobino. Questa era la terza puntata del ciclo di Ad Alta Voce. Ad Alta Voce è un programma a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Jacopo De Bertoldi. La regia Jonathan Zenti. Le puntate sono riascoltabili sul sito raiplayradio.it, che ora raccoglie tutti i programmi di Radio Rai. E adesso ancora un ascolto per il nostro Ron Carter, il grande contrabbassista statunitense che festeggia quest'anno gli 81 anni, contrabbassista jazz. Ascoltiamo sempre dall'album di oggi, Dear Miles, dedicato alla figura di Miles Davis, ma pronto a intercettare anche cover e altri brani. Ecco, ascoltiamo da quest'album del 2006, 595.